La situazione a bordo al momento, diciamo, è molto più critica di quando questa avventura è iniziata, cioè dopo il rescue del 22 dicembre. Adesso ci si trova più di 2 settimane con queste persone a bordo, che se prima erano contenti di essere state salvate, speranzose di arrivare in Europa, adesso stanno capendo benissimo che in Europa non sono assolutamente le benvenute, che ci sono forze molto più potenti di loro che stanno impedendo il loro arrivo in Europa. E adesso che sono più vicine all'Italia, sono almeno 5 giorni che sono in mezzo a onde e vento, quindi la gente che poteva dormire fuori ora sta dormendo dentro, il che è un bene ma anche un male, perché si ritrovano 32 persone ammassate in una stanza molto piccola dove ci sono persone da 10 nazionalità diverse, ci sono delle donne, ci sono 3 bambini, ci sono 4 minori, non ci sono casi medici gravi, però anche banalmente un mal di mare in uno spazio piccolissimo significa che nel giro di poche ore tutti quanti avranno il mal di mare, insomma non è una situazione piacevole. Passando, diciamo, alle dichiarazioni del governo italiano, si sono spese negli ultimi giorni con il solito battibecco, diciamo, tra Salvini e Di Maio. Ora la dichiarazione di Conte che l'Italia potrebbe decidere di accogliere 15 dei migranti a bordo. La prima domanda è se c'è stata anche qualche comunicazione invece proprio con l'equipaggio della nave, oltre a tutti i battibecchi interni al governo. Comunicazione diretta con l'equipaggio della nave? No, col fatto che la nave ha bandiera olandese ed è un ONG tedesca, si sono avuti più contatti proprio con la Germania e con l'Olanda, ma mai numeri certi, mai dichiarazioni sicure, soltanto la Germania e l'Olanda stanno continuando a trattare con gli altri stati, finché però non abbiamo un numero sufficiente di stati che accetta queste persone non si dà il via a nessuno sbarco. Invece, tornando alle condizioni a bordo, insomma, quali sono poi le condizioni effettivamente e quanto pesa poi questo rifiuto del governo, non solo italiano in realtà, ma in particolare italiano, di aiutare? Quello che pesa di più è sicuramente l'indifferenza e la superficialità con la quale si lasciano queste persone più di 2 settimane in mare. È una serie di anni che da quel che so io, uno dei primi casi di persone che vengono lasciate così tanto tempo in mare, con anche dichiarazioni ridicole del tipo Malta che dice potete ripararvi all'interno della nostra zona ma non potete effettivamente avvicinarvi sul serio e sbarcare. E quindi fa sicuramente pensare a quanto sia grande l'indifferenza e la superficialità di chi fa queste dichiarazioni. Parlando invece dell'organizzazione dell'equipaggio, come state facendo come equipaggio anche a coordinarvi per nel frattempo restare in mare? L'equipaggio di Sea-Watch è strutturato che ogni tot di tempo si deve cambiare, quindi 3 giorni fa il vecchio equipaggio è quasi tutto smontato per lasciare posto alle nuove persone, il che ha causato non pochi problemi, perché nel frattempo si era costruita con gli ospiti una relazione di fiducia, un certo equilibrio che ora è completamente rovesciato con la presenza di figure nuove, ed anche si sottolinea l'assurdità di questa situazione, cioè essere super vicini a Malta, dove noi europei abbiamo la possibilità di scendere, salire e darci il cambio, mentre loro non è assolutamente permesso muoversi. Quindi ora il nuovo equipaggio si troverà 2 volte in difficoltà, perché inizia una missione che è lasciata a metà da altri, e quindi oltre a dover aspettare con gente che ha 15 giorni che sta in mare, deve ricominciare da capo a costruire un minimo di rapporti, insomma, di confidenziali con queste persone. L'ultima domanda riguardo invece a, insomma, 15 giorni appunto sono tanti, a livello di carburante ma anche di scorte alimentari, di acqua eccetera, come state facendo? Nel senso, c'è un aiuto da parte dei governi anche se non aprono i porti? C'è un aiuto da terra da parte di altre ONG? Un aiuto da parte di, cioè l'unico aiuto, se vogliamo chiamarlo aiuto, è che c'è, cioè, uno dei motivi per cui ci si era anche tanto avvicinati a Malta oltre per il maltempo era che si stava finendo l'acqua e il carburante e le scorte di cibo, e quindi Malta ha concesso, oltre a un appoggio, lo spazio per fare il cambio dell'equipaggio, anche qualche ora per riuscire a fare rifornimenti d'acqua e di viveri che sono stati fatti 2 giorni fa.